Buongiorno Rachele, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. È sempre un vero piacere essere di nuovo sulle frequenze di Radio Città Fujiko, nonostante la distanza, perché nuovamente non sono in studio, ma è sempre bello essere qui. Ma bando agli inconvenevoli, sono qui per parlarvi di un ciclo di incontri organizzato da Altre Velocità all'interno del progetto di Emilia Romagna Teatro Fondazione Così sarà la città che vogliamo, che è un progetto teatrale e performativo legato all'utilizzo della cultura al fine di coinvolgere giovani tra gli 11 e i 25 anni della città metropolitana di Bologna per riflettere sulla fondazione di una nuova città. Domani è un altro mondo, quindi dicevo, è un ciclo di incontri che Altre Velocità organizza, aperto a tutta la cittadinanza, ma prevalentemente rivolto ai giovani, e ha l'intento di mettere in luce questi temi riguardanti la città e stimolare questioni capaci di alimentare la riflessione attorno alla città, al suo rinnovamento, ma soprattutto ora che la pandemia ha imposto delle accelerazioni e dei profondi cambi all'interno della nostra società. Sono di fondo delle conversazioni aperte con personalità che provengono da differenti ambiti del sapere e sono chiamati quindi a dialogare, a condividere pratiche, a condividere visioni e il tutto in un dialogo fra discipline in modo tale che ci sia una contaminazione tra queste e si possa uscire da chiusure e settorialismi. Di fatto questo progetto, Domani è un altro mondo, ha già preso avvio il 18 settembre con Ascolti utopici, la città che vogliamo. È stata una serata d'ascolto a cura di Rodolfo Sacchettini, che ha presentato un documentario di Andrea Cavilleri e ha condiviso un po' il ragionamento intorno al mezzo radiofonico. Tuttora, come un tempo, riesce a essere quasi sempre uno strumento per guardare al futuro. Il 24 settembre invece c'è stato l'incontro con l'autrice di romanzi per ragazzi e adulti, Nadia Terranova, dal titolo Zazzi nel metrò, la città immaginata dai ragazzini. E invece il prossimo appuntamento si terrà il 16 ottobre e sarà con Goffredo Fofi. Il titolo è Uno straniero in città. Goffredo Fofi è un critico e attivista ed è tra le voci più radicali del mondo culturale italiano e andrà a incontrare i giovani di Bologna prevalentemente per abbracciare e spaziare fra differenti temi, fra economia, politica, cultura, educazione e natura, futuro, molto altro. È maestro disobbediente anarchico, lo abbiamo definito nel nostro volantino, quindi sarà una preziosa occasione per ascoltare e dialogare assieme a lui su veramente un'enorme vastità di tematiche. A seguire invece il 23 ottobre ci sarà un dialogo tra Stefano Laffi e Wolf Bukowski. Il titolo è Gioventù rubata, il decoro urbano e altre congiure. Stefano Laffi e Wolf Bukowski sono ricercatori e autori instaccabili, critici del senso comune. La domanda da cui partiranno è: qual è il destino dei giovani nella città di oggi? Cosa si intende per decoro urbano? Chi decide e perché? Cercano insomma di tenere vive queste domande in modo tale da fare un'analisi un po' del presente e condividere le riflessioni con ovviamente la cittadinanza. Il 30 ottobre invece ci sarà l'ultimo incontro dal titolo Le mani sulla città, abitare al tempo delle piattaforme, e l'incontro sarà con Sara Gainsford, una giornalista freelance, autrice di Airbnb Città Merce, e si occupa Gainsford prevalentemente di temi sociali con un focus dedicato soprattutto alle disuguaglianze e alle politiche abitative. Questo incontro verterà prevalentemente su quale sarà la città del domani a seguito quindi della pandemia, quindi che ruolo giocherà il settore del turismo e soprattutto si tratterà anche del suo ambito specifico, quindi del diritto alla casa e di queste politiche abitative. Tutti gli incontri si tengono ad Atelier C in via San Vitale 69 a Bologna e tutti si tengono alle ore 18. Sono a ingresso gratuito, ma i posti sono limitati anche per rispetto delle norme anti-Covid e proprio per questo è necessario prenotarsi inviando una mail a altrevelocita@gmail.com indicando nome, cognome, data e luogo di nascita e numero di telefono. Noi vi aspettiamo quindi ad Ateliersi a partire dal 16 ottobre ore 18 con Goffredo Fofi, uno straniero in città. Vi auguro una buona giornata e a presto!